Noi siamo. Mi piace questo progetto dell'Altra Radio de Roma. Si dice così. Ragazzi, siamo partiti. Bella riga. Ciao a tutti, ragazzi. Radio Roma, che emozione. Sono qui pronto per lanciare nuovi pezzi. Pronto per darvi un altro po' di roba. Perché noi non siamo de Pelastica. Un'altra Radio. Ed eccoci qua, maggio 2010, BNZ MNZ con la traccia dal nome Roma Overflow. We'll be right back. mixate da Super Maurone. Buonasera a tutti. Questa è una produzione francese molto interessante. Si chiama Techno Poison. Live track Techno Spock 23. Ma che de? Dicono la radio. Tu sei che? Dicono non è la radio, è un'altra radio. Come? Un'altra radio! Le migliori produzioni FM selezionate e mixate da Super Neurone. Si chiama Infosphere Green Punch, direttamente dall'Olanda, molto interessante. the music, the music, is free. Na radio Roma. Abbiamo questa traccia si chiama Redemption V2 Techno Acid. The music, the music is free. The music, the music is free. mixate da Super Maurone. Questo è un altro artista romano, il suo nome è Acid Nut. Produzioni romane, lui è DJ Pitto con la sua Dynamic Culture. Don't. The music that is free, free, free, free. Il podcast di maggio, ultima la mia traccia dal titolo King Driver.